Ma io il torso non lo mangio davvero, gridò il burattino, rivoltandosi come una vipera. Chi lo sa, i casi sono tanti, ripeté Geppetto, senza riscaldarsi. Fatto sta che i tre torsoli, invece di essere gettati fuori dalla finestra, vennero posati sull'angolo della tavola in compagnia delle bucce. Mangiate, o per dir meglio, divorate le tre pere, Pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio e disse piagnucolando: «Ho dell'altra fame!» «Ma io, ragazzo mio, non ho più nulla da darti!» «Proprio nulla, nulla!» «Ci avrei soltanto queste bucce e questi torsoli di pera!» «Pazienza!» disse Pinocchio. «Se non c'è altro, mangerò una buccia!» E cominciò a masticare. Da principio torse un po' la bocca, ma poi, una dietro l'altra, spolverò in un soffio tutte le bucce, e dopo le bucce anche i torsoli, e quando ebbe finito di mangiare ogni cosa, si batté tutto contento le mani sul corpo e disse gongolando: «Ora sì che sto bene!» «Vedi dunque», osservò Geppetto, «che avevo ragione io, quando ti dicevo che non bisogna avvezzarsi né troppo sofistici né troppo delicati di palato. Caro mio, non si sa mai quel che ci può capitare in questo mondo. I casi son tanti». Geppetto rifà i piedi a Pinocchio e vende la propria casacca per comprargli l'abbecedario. Il burattino, appena che si fu levata la fame, cominciò subito a bofonchiare e a piangere perché voleva un paio di piedi nuovi. Ma Geppetto, per punirlo della monelleria fatta, lo lasciò piangere e disperarsi per una mezza giornata. Poi gli disse: «E perché dovrei rifarti i piedi? Forse per vederti scappar di nuovo da casa tua?» «Vi prometto», disse il burattino singhiozzando, «che da oggi in poi sarò buono». «Tutti i ragazzi», replicò Geppetto, «quando vogliono ottenere qualcosa dicono così». «Vi prometto che anderò a scuola, studierò e mi farò onore». «Tutti i ragazzi, quando vogliono ottenere qualcosa, ripetono la medesima storia». «Ma io non sono come gli altri ragazzi, io sono più buono di tutti e dico sempre la verità. Vi prometto, babbo, che imparerò un'arte e che sarò la consolazione e il bastone della vostra vecchiaia». Geppetto, che sebbene facesse il viso di tiranno, aveva gli occhi pieni di pianto e il cuore grosso dalla passione di vedere il suo povero Pinocchio in quello stato compassionevole, non rispose altre parole, ma prese in mano gli arnesi del mestiere e due pezzetti di legno stagionato, si pose a lavorare di grandissimo impegno e in meno d'un'ora i piedi erano belle fatti, due piedini svelti, asciutti e nervosi, come se fossero modellati da un artista di genio. Allora Geppetto disse al burattino: «Chiudi gli occhi e dormi». E Pinocchio chiuse gli occhi e fece finta di dormire, e nel tempo che si fingeva addormentato, Geppetto, con un po' di colla sciolta in un guscio d'uovo, gli appiccicò i due piedi al loro posto e glieli appiccicò così bene che non si vedeva nemmeno il segno dell'attaccatura. Appena il burattino si accorse d'avere i piedi, saltò giù dalla tavola dove stava disteso e principiò a fare mille sgambetti e mille capriole, come se fosse matito dalla gran contentezza. «Per ricompensarvi di quanto avete fatto per me», disse Pinocchio al suo babbo, «voglio subito andare a scuola». «Bravo ragazzo!» «Ma per andare a scuola ho bisogno di un po' di vestito». Geppetto, che era povero e non aveva in tasca nemmeno un centesimo, gli fece allora un vestituccio di carta fiorita, un paio di scarpe di scorza d'albero e un berrettino di midolla di pane. Pinocchio corse subito a specchiarsi in una catinella piena d'acqua e rimase così contento di sé che disse, pavoneggiandosi, «Paio proprio un signore!» «Davvero», replicò Geppetto, «perché tienilo a mente, non è il vestito bello che fa il signore, ma è piuttosto il vestito pulito». «A proposito», soggiunse il burattino, «per andare alla scuola mi manca sempre qualcosa, anzi mi manca il più e il meglio». «Cioè?» «Mi manca l'abbecedario». «Ah, hai ragione, ma come si fa per averlo?» È facilissimo, si va da un libraio e si compra. E i quattrini? Io non ce l'ho. Nemmeno io, soggiunse il buon vecchio facendosi triste. E Pinocchio, sebbene fosse un ragazzo allegrissimo, si fece triste anche lui, perché la miseria, quando è miseria davvero, la intendono tutti, anche i ragazzi. Pazienza, gridò Geppetto tutto a un tratto rizzandosi in piedi. E infilatasi la vecchia casacca di frustagno, tutta toppe e rimendi, uscì correndo di casa. Dopo poco tornò, e quando tornò aveva in mano l'abbecedario per il figliuolo. Ma la casacca non l'aveva più. Il pover'uomo era in maniche di camicia e fuori nevicava. «E la casacca, babbo?» «L'ho venduta». «Perché l'avete venduta?» «Perché mi faceva caldo». Pinocchio capì questa risposta a volo e, non potendo frenare l'impeto del suo buon cuore, saltò al collo di Geppetto e cominciò a baciarlo per tutto il viso. Thank you. Pinocchio vende l'abecedario per andare a vedere il teatrino dei burattini. Smesso che fu di nevicare, Pinocchio, col suo bravo abecedario nuovo sotto il braccio, prese la strada che menava alla scuola e, strada facendo, fantasticava nel suo cervellino mille ragionamenti e mille castelli in aria, uno più bello dell'altro. E, discorrendo da sé solo, diceva: «Oggi alla scuola voglio subito imparare a leggere, domani poi imparerò a scrivere e domani l'altro imparerò a fare i numeri. Poi, con la mia abilità, guadagnerò molti quattrini e coi primi quattrini che mi verranno in tasca voglio subito fare al mio babbo una bella casacca di panno». «Ma che dico di panno?» «Gliela voglio fare tutta d'argento e d'oro e coi bottoni di brillanti, e quel pover'uomo se la merita davvero, perché insomma per comprarmi i libri e per farmi studiare è rimasto in maniche di camicia. A questi freddi non ci sono che i babbi che siano capaci di certi sacrifici». Mentre tutto commosso diceva così, gli parve di sentire in lontananza una musica di pifferi e di colpi di grancassa. Pi pi pi pi pi pi, zum zum, zum zum. Si fermò e stette in ascolto. Questi suoni venivano di fondo a una lunghissima strada traversa che conduceva a un piccolo paesetto fabbricato sulla spiaggia del mare. «Che cosa sia questa musica? Peccato che io debba andare a scuola. Se no...» E rimase lì perplesso. Ogni modo, bisognava prendere una risoluzione: o a scuola o a sentire i pifferi. «Oggi andrò a sentire i pifferi e domani a scuola. Per andare a scuola c'è sempre tempo», disse finalmente quel monello facendo una spallucciata. Detto fatto, infilò giù per la strada traversa e cominciò a correre a gambe. Più correva e più sentiva distinto il suono dei pifferi e dei tonfi della grancassa. «Pi pi pi pi pi pi pi pi pi, zum zum zum zum». Quando ecco che si trovò in mezzo a una piazza tutta piena di gente, alla quale si affollava intorno a un gran baraccone di legno e tela dipinta di mille colori. «Che cos'è quel baraccone?» domandò Pinocchio voltandosi a un ragazzetto che era lì del paese. «Leggi il cartello che c'è scritto e lo saprai». «Lo leggerei volentieri, ma per l'appunto oggi non so leggere». «Bravo bue! Allora te lo leggerò io. Sappi dunque che in quel cartello a lettere rosse come il fuoco c'è scritto: Gran Teatro dei Burattini». «È molto che è incominciata la commedia». «Comincia ora». «E quanto si spende per entrare?» «4 soldi». Pinocchio, che aveva addosso la febbre della curiosità, perse ogni ritegno e disse senza vergognarsi al ragazzetto col quale parlava: «Mi daresti 4 soldi fino a domani?» «Te li darei volentieri», gli rispose l'altro canzolandolo, «ma oggi per l'appunto non te li posso dare». «Per 4 soldi ti mendo la mia giacchetta», gli disse allora il burattino. «Cosa vuoi che mi faccia di una giacchetta di carta fiorita? Se ci piove su, non c'è più verso di cavarsela d'addosso». «Vuoi comprare le mie scarpe?» «Sono buone per accendere il fuoco». «Quanto mi dai del mio berretto?» «Bello acquisto davvero, un berretto di midolla di pane. C'è il caso che i topi me lo vengano a mangiare in capo». Pinocchio era sulle spine, stava lì lì per fare un'ultima offerta, ma non ne aveva il coraggio. Esitava, tentennava, pativa. Alla fine disse: «Vuoi darmi 4 soldi di questo abecedario nuovo?» «Io sono un ragazzo e non compro nulla dai ragazzi», gli rispose il suo piccolo interlocutore, che aveva molto più giudizio di lui. «Per 4 soldi l'abecedario lo prendo io», gridò un rivenditore di panni usati che si era trovato presente alla conversazione. E il libro fu venduto lì su 2 piedi. E pensare che quel pover'uomo di Geppetto era rimasto a casa a tremare dal freddo in maniche di camicia per comprare l'abecedario al figliuolo. Thank you. Burattini riconoscono il loro fratello Pinocchio e gli fanno una grandissima festa, ma sul più bello esce fuori il burattinaio Mangiafoco e Pinocchio corre il pericolo di fare una brutta fine. Quando Pinocchio entrò nel teatrino delle marionette, accadde un fatto che destò una mezza rivoluzione. Bisogna sapere che il sipario era tirato su e la commedia era già incominciata sulla scena. Si vedevano Arlecchino e Pulcinella che bisticciavano fra di loro e, secondo il solito, minacciavano da un momento all'altro di scambiarsi un carico di schiaffi e di bastonate. La platea, tutta attenta, si mandava male dalle grandi risate nel sentire il battibecco di quei due burattini che gestivano e si trattavano d'ogni vitupero con tanta verità come se fossero proprio due animali ragionevoli e due persone di questo mondo. Quando all'improvviso, che non è, Arlecchino smette di recitare e, voltandosi verso il pubblico e accennando con la mano, qualcuno in fondo alla platea comincia a urlare in tono drammatico: «Nomi del firmamento! Sogno son desto! Eppure quello laggiù è Pinocchio! È Pinocchio davvero!» grida Pulcinella. «È proprio lui!» strilla la signora Rosaura, facendo capolino di fondo alla scena. «È Pinocchio! È Pinocchio!» urlano in coro tutti i burattini, uscendo a salti fuori dalle quinte. «È Pinocchio! È il nostro fratello Pinocchio! Viva Pinocchio!» «Pinocchio, vieni qua su da me!» grida Arlecchino. «Vieni a gettarti fra le braccia dei tuoi fratelli di legno!» A questo affettuoso invito Pinocchio spicca un salto e di fondo alla platea va nei posti distinti, poi con un altro salto dai posti distinti monta sulla testa del direttore d'orchestra e di lì schizza sul palcoscenico. È impossibile figurarsi gli abbracciamenti, gli strezzoni di collo, i pizzicotti dell'amicizia e le zuccate della vera e sincera fratellanza che Pinocchio riceve in mezzo a tanti arruffio dagli attori e dalle attrici di quella compagnia drammatico-vegetale. Questo spettacolo era commovente, non c'è che dire, ma il pubblico della platea, vedendo che la commedia non andava più avanti, si impazientì e prese a gridare: «Vogliamo la commedia! Vogliamo la commedia!» Tutto fiato buttato via, perché i burattini, invece di continuare la recita, raddoppiarono il chiasso e le grida e, postosi Pinocchio sulle spalle, lo portavano in trionfo davanti ai lumi della ribalta. «Allora uscì fuori il burattinaio, un omone così brutto che metteva paura soltanto a guardarlo. Aveva una barbaccia nera come uno scarabocchio d'inchiostro e tanto lunga che gli scendeva dal mento fino a terra. Basta dire che quando camminava se la pestava coi piedi, la sua bocca era larga come un forno e gli occhi parevano due lanterne di vetro rosso col lume acceso di dietro. e con le mani faceva schioccare una grossa frusta fatta di serpenti e di code di volpi attorcigliate insieme. All'apparizione inaspettata del burattinaio nessuno fiatò più. Si sarebbe sentito volare una mosca. Quei poveri burattini, maschi e femmine, tremavano tutti come tante foglie. «Perché sei venuto a mettere lo scompiglio nel mio teatro, eh?» domandò il burattinaio a Pinocchio, con un vocione d'orco gravemente infreddato di testa. «La credo, illustrissimo, che la colpa non è stata mia.» «Basta così! Stasera faremo i nostri conti!» Difatti, finita la recita della commedia, il burattinaio andò in cucina, dove egli si era preparata per cena un bel montone che girava lentamente infilato nello spiede. E perché gli mancavano le legna per finirlo di cuocere e di rosolare, chiamò Arlecchino e Pulcinella e disse loro: «Portatemi qua quel burattino che troverete attaccato al chiodo. Mi pare un burattino fatto di un legname molto asciutto, e sono sicuro che a buttarlo sul fuoco mi darà una bellissima fiammata all'arrosto.» Arlecchino e Pulcinella da principio esitarono, ma impauriti da un'occhiataccia del loro padrone obbedirono. E dopo poco tornarono in cucina portando sulle braccia il povero Pinocchio, il quale, divincolandosi come un'anguilla fuor dell'acqua, strillava disperatamente: «Babbo mio, salvatemi! Non voglio morire! Non voglio morire!» Paolo Poli ha letto Pinocchio di Carlo Collodi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.